Leggo spesso articoli dove si pone l'enfasi sul rapporto con il sesso opposto. Sono evidenti le continue esortazioni alla castità e a vivere un fidanzamento secondo la volontà di Dio. Ma devo ammettere che ricordo ben pochi scritti di persone che hanno testimoniato il modo in cui si sono fidanzate e come hanno vissuto questo periodo. Per questa ragione desidero scrivere quella che è stata la mia esperienza prematrimoniale per dimostrare che si può arrivare al fidanzamento e successivamente al matrimonio, senza sguardi languidi, grandi passioni o colpi di fulmine come ci propone la televisione. Forse la mia esperienza è atipica, ma spesso ho l'impressione che i giovani vivano, senza rendersene conto, in un mondo irreale nel quale inseguono affannosamente qualcosa che non esiste. Peraltro, auspico di essere di incoraggiamento ad altri, poiché una testimonianza spesso ha più valore di tante esortazioni. Un giovane necessita di un insegnamento dottrinale, ma ancor più di sapere come questo viene applicato nella vita di coloro che lo invitano ad adempiere la volontà di Dio. Per quanto mi ricordo, il desiderio di avere una ragazza è sempre esistito nel mio cuore. Sarà perché sono rimasto orfano a 13 mesi. Sarà come per tutti, perché avevo bisogno di amare e di essere amato. Sarà una mia componente psicologica. Sta comunque di fatto che la presenza femminile mi ha sempre fortemente attratto. Mi sono convertito a 21 anni e fino a quel giorno non avevo avuto nessuna relazione seria con una ragazza. Ero arrivato al massimo al bacio, tra l'altro per nulla passionale, solo perché costretto dalle circostanze. Per me, devo confessarlo, era un grosso problema. Non riuscivo a guardare una ragazza, stringerla a lungo durante un ballo e provare per lei una qualche passione. Preoccupato, mi recai dal medico, il quale, dopo una visita, mi disse che non riscontrava nulla di anormale. Ma il dilemma rimaneva: perché non riuscivo, come i miei amici, a provare passione ed a sedurre una ragazza? Ma il desiderio di conoscere Dio era talmente forte che i problemi sessuali passarono in secondo piano. Lo dimostra il fatto che quando conobbi il messaggio dell'Evangelo, dopo 3 mesi lo accettai. Diventato un figlio di Dio, le ragazze del mondo non mi interessarono più. I miei occhi erano rivolti esclusivamente verso le ragazze credenti. E così, mentre andavo a tutti gli incontri giovanili col profondo desiderio di ascoltare la parola di Dio, osservavo anche attentamente chi poteva essere colei che avrei scelto. Ma Dio serbava per me un piano diverso. Pochi anni dopo la mia conversione, si trasferì in estate, per lavoro, nella comunità alla quale appartenevo, una bella ragazza credente. Questa comunicò subito a tutti apertamente e con estrema fermezza che non aveva nessuna intenzione di sposarsi. Evitava, in tal modo, di dare adito a qualsiasi giovane di tentare ogni approccio romantico. Trascorsero pochi mesi. E non ci volle molto a capire che questa ragazza non solo dimostrava di non volersi sposare, ma era veramente contraria alle attenzioni dei giovani. Si irritava e rispondeva male. Era, per così dire, un osso duro. Ma, nell'osservarla bene, notavo che fondamentalmente il suo modo di fare costituiva più una reazione che parte vera del suo carattere. Riscontravo in lei tanti difetti, ma una cosa mi attirava. Era affettuosa. Così studiai un piano. Avevo un'ernia fastidiosa e di conseguenza decisi che mi sarei fatto operare per poi recarmi, durante la convalescenza, ad aiutare l'opera missionaria per la quale lei lavorava, in modo tale da poterle stare più vicino e comprenderla meglio. Giunse la convalescenza, prestai disinteressatamente la mia mano d'opera. Ma la mia presenza la irritava sempre più, tant'è vero. Il mese di dicembre ed andai all'ospedale. Durante che, nell'ambito delle nostre conversazioni, ricevevo spesso risposte taglienti. Finalmente venne il giorno decisivo. A mezzogiorno di solito mi veniva offerto il pranzo, e quel giorno, non essendoci nessuno che potesse occuparsi di me, le chiesero di invitarmi a mangiare con lei. Accettò. Visibilmente con rabbia, perché non poteva sottrarsi a tale compito. Subito si mise a preparare il pranzo, ed io, come mia abitudine, la osservavo nei minimi particolari per cogliere non so che cosa. Venne il momento di condire l'insalata, e, afferrata la bottiglia, la inclinò ponendovi, come di consueto, il dito davanti per controllare l'uscita dell'olio. Ma ricordandosi della mia presenza, con uno scatto ritirò il dito mettendo di nuovo la bottiglia diritta. Poi, con tutta la disinvoltura che le era possibile, versò l'olio molto lentamente senza porvi più il dito davanti. A quel punto capii, non l'ero del tutto indifferente. Nel mio cuore nacque così un barlume di speranza. Ma vi era un grosso ostacolo. Non potendole assolutamente parlare amichevolmente perché lei lo avrebbe interpretato come una avance, come avrei mai potuto esprimere dei sentimenti amorosi? Dovevo comunque fare qualcosa. Desideravo che diventasse la mia ragazza, ma prima di tutto volevo instaurare con lei un rapporto di amicizia, o quantomeno di non belligeranza. Presi coraggio e le dissi che volevo parlarle. Lei, di rimando in tono minaccioso, mi disse: «Anch'io ho bisogno di parlarti». Si innalzavano all'orizzonte nuvole di tempesta. Entrammo in un ufficio. Io mi sedetti dietro ad una scrivania e lei, in piedi davanti a me e con le braccia conserte, con uno sguardo che non prometteva nulla di buono, mi invitò a parlare. «Senti», le dissi con il cuore in gola, «ho capito che non mi vuoi. Mi fa piacere che tu l'abbia capito». Mi interruppe lei soddisfatta. «Beh», risposi ormai distrutto nel vedere svanire ogni mia speranza, «non ci vuole molto. Ogni cosa che dico è motivo di lite». Non ricordo in seguito che cosa ci dicemmo. La conversazione si protrasse a lungo e le mie ultime parole furono: «comunque sia, i miei sentimenti nei tuoi confronti sono diversi dai tuoi. Ci congedammo almeno in pace». Dopo neanche un mese, prima che terminasse la convalescenza, mi disse che voleva parlarmi. Rimasi stupito perché dopo la mia dichiarazione non c'era stato più motivo di conversazione. Andammo nel solito ufficio, mi sedetti e lei, stando sempre in piedi, con molto imbarazzo mi disse: «sai, per quella roba là, ti dico di sì». Il cuore stava per scoppiarmi, ma volli essere sicuro di non essermi illuso. Così chiesi di rimando: «a cosa ti riferisci? Non capisco». «Ma sì», rispose lei, ancora più imbarazzata ed un po' innervosita, perché doveva essere più precisa, «la nostra conversazione. Te la ricordi?» «Ebbene, ti dico sì, però», aggiunse subito, «dato che sono sola e devo rispondere agli altri del mio comportamento, dobbiamo prima annunciarlo alla chiesa, poi potrò uscire con te». Fu così che stabilimmo il giorno dell'annuncio del nostro fidanzamento, e precisamente il 6 gennaio del 1967, data in cui combaciavo una festa in casa di un fratello. Durante tale festa chiesi a tutti di fare silenzio, perché avevo un importante annuncio da comunicare. «Lidia ed io ci siamo fidanzati», dissi con una gioia che sprigionava da tutti i pori. Ne seguì un coro di entusiasmo e di auguri. Ma ad un tratto, nel bel mezzo della confusione, si sentì la voce di Lidia. «E chi lo ha detto?» Una spada mi trapassò l'anima. Mentre i fratelli e le sorelle ridevano di questa uscita inaspettata, senza cogliere il mio dolore e la mia disperazione, reagii e dissi a tutti di tacere. «Bene», aggiunsi riprendendomi, «visto che le cose stanno così, adesso Lidia direi davanti a tutti se è vero che ci siamo fidanzati oppure no. A quel punto lei dovette testimoniare il patto che avevamo fatto. Ci eravamo fidanzati pubblicamente». La domenica seguente, per la prima volta, due giovani camminavano mano nella mano per la città. Lei non era mai uscita con un ragazzo da sola, ed io, per la prima volta, nel toccare una ragazza, mi resi conto di essere sessualmente normale. Ciò che mi aveva impedito di provare passione per altre ragazze era stata la mancanza di affetto. Il sesso, per me, deve coinvolgere i sentimenti. L'affetto e l'amore stimolano il sesso e non viceversa. Ero talmente felice che, per paura di rovinare il nostro rapporto o di perdere quel dono che da sempre avevo desiderato, ero soddisfatto nel darle solo la mano. E mano nella mano passavamo le giornate e le serate assieme, conversando di tutto come due innamorati. Una sera, dopo aver chiacchierato a lungo, giunse per me il momento di tornare a casa. Stavo per salutarla, quando con un candore che non ho mai trovato in nessuna ragazza, lei mi disse: "Tu mi dici che mi vuoi bene, ma perché non mi dai un bacio?" Il mio cuore si sciolse, mentre ardevo più di un ferro rovente. Ma con tutta la sincerità ed onestà che mi ha sempre contraddistinto, le dissi: "Vedi, nel mondo, quando un ragazzo dice che vuol bene ad una ragazza, la bacia subito. Poi invece si tratta solo di passione. Io ti voglio veramente bene e proprio perché te ne voglio non ti bacio. Per me sei troppo preziosa e non voglio che baciandoti tu pensi che sia spinto dalla passione." "Non importa", rispose con una purezza che faceva impressione. "Io voglio un bacio." Fu così che per la prima volta un giovane pieno di sincero affetto, nella penombra di un lampione, pose delicatamente sulla guancia di una ragazza, senza malizia, le sue labbra, con un sonoro schiocco. Non so, in seguito, il modo in cui lei fece le scale per rientrare in casa, ma io posso sicuramente dire che la mia 500 volava tra le nuvole. Passarono pochi mesi ed iniziai a parlare di matrimonio. Non mi ero fidanzato per prova, ma perché volevo sposarmi. Concepivo il fidanzamento come un periodo di transizione finalizzato al matrimonio. E nulla di più. Io ero molto serio e sincero, ma questo non bastava perché ero anche effettivamente immaturo. Lei aveva la testa sul collo e un giorno mi disse che non credeva ad un matrimonio costruito solo di due cuori e una capanna. Così, con saggezza e competenza, mi fece notare che i nostri introiti non garantivano un futuro economicamente sereno. Perché questo potesse realizzarsi, avrei dovuto guadagnare 80.000 lire al mese ed avanzare di 3 scatti di categoria sul lavoro. Era un'impresa ardua, ma se volevo sposarmi, era l'unica soluzione. L'amore ed il bisogno aguzzano l'ingegno. E così, nel giro di un anno, ottenni esattamente quello che lei desiderava. Ci sposammo l'anno seguente in maggio, anche perché il bacio dato sulla guancia ben presto scivolò sulle labbra, ed in questo modo si ruppe l'incantesimo dell'innocenza. Mi resi conto che un fidanzamento, dopo un anno, diventa pericoloso per la sua integrità, e per la maggioranza dei casi, è la donna che ha le redini della situazione. Sono più di 30 anni che siamo sposati. Abbiamo avuto ed abbiamo tuttora le nostre difficoltà ed incomprensioni. Ma le caratteristiche iniziali non sono venute meno. Lei è rimasta affettuosa. Io continuo a volerle bene. Anzi, il mio bene si è trasformato in amore, quell'amore che inizia quando una persona sente che i bisogni di un'altra persona sono importanti quanto i suoi. Oggi le dico che la amo, cosa che non le ho mai detto durante il fidanzamento e i primi anni di matrimonio perché conoscevo e conosco il peso di questa parola che non può essere espressa a ragion veduta se non dopo aver vissuto assieme parte della vita matrimoniale. Per certi aspetti, questa storia potrà sembrare una favola di altri tempi. Alcuni possono giustificare certi comportamenti casti perché si viveva in un'altra epoca, ma non è così, poiché anche ai miei tempi esistevano la corruzione e la seduzione. Molte ragazze rimanevano incinte e venivano abbandonate, il bacio era praticato senza affetto, i rapporti prematrimoniali erano normali. Ma quando si conosce Dio ed il suo carattere, quando si ha il suo timore ed il nostro cuore è profondamente sincero nel desiderare di fare la sua volontà, egli sa trarre i pii dalle tentazioni. Non è detto che ci si debba sempre sposare profondamente innamorati, non è detto che si debba trovare sempre la persona dotata di tutti i requisiti che cerchiamo. Una volta erano i genitori che decidevano chi sposare e quando sposarsi. Basta leggere 1 Corinzi 7, 36-38. Oggi abbiamo la libertà di scegliere il compagno come e quando, ma nonostante tutto sono pochi i fidanzamenti seri ed i matrimoni duraturi. I giovani di oggi mi appaiono in balia dei loro sentimenti e dei loro impulsi. Si trovano a dover governare la sessualità che a loro è sconosciuta e quindi pericolosa. Hanno bisogno di persone più mature che stiano loro vicino. Hanno bisogno che le persone più mature parlino chiaramente loro dei propri successi ed insuccessi amorosi senza vergogna,